menzogna, Repubblica borghese, un dì ne avrai vergogna. Noi oggi t'accusiamo in faccia all'avvenir. Noi oggi t'accusiamo in faccia all'avvenir. Bandi